Siamo con Sergio Stivaletti, regista del film Rabbia Furiosa, El Canaro, uscito in sala lo scorso 7 giugno. Sergio, ben trovato. Salve, grazie, come va? Bene, tu? Allora, io bene, sto raccogliendo un po' di soddisfazioni da questo film, fortuna, diciamo, sembra che piaccia, quindi che cosa posso volere di più? Senti, un bilancio della prima settimana di programmazione? Ma guarda, è andato piuttosto bene, si è ben difeso diciamo, al box office, quindi non posso lamentarmi perché poi sembra appunto un film che anche alla critica piace, quando una cosa piace sia al pubblico che alla critica, insomma diciamo c'è speranza di essere continuato a vedere anche nella tenitura del film, che è sempre la cosa più critica e difficile nella distribuzione, insomma. Come lo racconteresti in breve? Ma dunque, diciamo ci possono essere due tipi di spettatori, quelli che ricordano di questa storia avvenuta tanti anni fa nel quartiere della Magliana qui a Roma e che sicuramente quantomeno potranno trovare in questo film, diciamo, il racconto dei bar, dei momenti più terribili che si faceva e quindi in qualche modo ho cercato di rifarmi a quei ricordi lì, insomma, quando io stesso cercavo di immaginarmi come sarebbe andata la faccenda. Però chiaramente non è nemmeno un film di cronaca, quindi non è quella la parte, diciamo, importante che venga ricostruito. Esattamente, il film è un film che prende le mosse, la partenza da quello per poi diventare un'altra cosa, un film di genere, un film con degli grandi attori che è veramente molto credibile, una parte non facile, perché chiaramente sì, è facile scadere così, nella macchietta quando si fa qualcosa di così, diciamo, estremo. Per cui, insomma, diciamo, questo, poi dopodiché, insomma, vorrei che il film lo vedeste più che lo racconti, perché Certo. sicuramente credo di aver fatto diciamo, il miglior lavoro, l'ho fatto visivamente, l'ha visto, l'ha ascoltato, perché c'è una grandissima, migliore colonna sonora che penso sia stata mai fatta, almeno da me, insomma, Maurizio Appeni ha dato veramente il massimo, c'è una bellissima canzone fatta apposta per il film, quindi direi che insomma, motivi per vederlo ce ne sono fin troppi, per cui Sì. cercatelo nei cinema, che non sono purtroppo tantissime, è una produzione indipendente ed è una distribuzione indipendente che nasce con questo film, quindi credo che ci siano mille motivi per sostenerlo, per vederlo, per diciamo dare ragione a un cinema che credo debba un po' rinascere, cioè quello del cinema di genere, film di genere. Sergio, è un progetto che cullavi da diversi anni e com'è nato tutto? Molti anni fa, subito dopo Maschera di Cera, diciamo circa un anno dopo, produttore Galliano Iuso mi chiamò perché aveva in cuore di fare, voleva tanto fare un film da un romanzo di Cerami, che era, si chiamava Fantacci, se non sbaglio, erano 4-5 storie, da cui fu tratto credo anche il film che poi fece Garrone sul Nano Semeraro, cioè il Nano della Stazione, Sì. quell'altro episodio per cui fece l'imbalsamatore. Evidentemente era un po' nell'aria questo tipo di film sul crime, su questi crimini efferati, e ne vennero fuori varie idee che ognuno di noi sviluppò il proprio. Io purtroppo il film non si fece all'epoca, ma rimasi con più l'idea di cercare di farlo, di creare una storia, che scrive una sceneggiatura, che a più riprese ho scritto. Dopodiché ho sentito che un annuncio che sarebbe stato prodotto questo film, l'altro, ma a quel punto ho detto non voglio essere non scippato, perché non è che nessuno scippa nulla a nessuno, però di fatto poi si ha la sensazione che se viene fatto un film sulla storia l'altro viene bruciato, quindi mi sono messo subito in produzione anch'io e di fatto ho girato anche prima, però di fatto poi nell'ordine pratico delle cose ci è voluto molto tempo per finirlo, il film, ci sono molti effetti, molte scenografie virtuali, vario tipo di cose che non si notano neanche ma che servono davvero alla storia. Quindi la post-produzione è durata parecchio, quindi noi siamo arrivati a ridosso dell'altro film, che tutti sanno essere Dogman, e quindi io ho fatto il mio Canaro, la mia storia. Qualcuno scherzosamente dice che il mio film sembra il film fatto con i tagli della sala di montaggio del film di Garrone. In qualche modo è una battuta spiritosa che però mi fa, in qualche modo è un po' vero, è un film che parla molto di quei momenti che tutti abbiamo sentito e ci siamo raccontati così, inventandoseli. Ecco, in questo senso, Sergio, che cosa ti ha impressionato di più di quella vicenda? mi ha impressionato il fatto che sembra una vicenda ispirata a sua volta a un film. Potrebbe essere una cosa come Leatherface piuttosto che un altro, sono una vita quella porca, cioè stiamo parlando di una storia vera o quantomeno presupposta tale, perché poi sappiamo che gli atti giudiziari raccontano altre cose, che rende concrete quelle che sono le nostre fobie, i nostri terrori, il fatto che possa in noi nascere, sorgere, diciamo così, questo senso di vendetta che non possiamo nascondere di provare a volte tutti noi. Quando ci troviamo di fronte all'ingiustizia, ecco che quel senso di vendetta diventa in alcuni soltanto uno sfogo magari mentale o di rabbia momentanea. Nel mio film il fatto che quello sfogo lì diventa concreto, diventa qualcosa di vero e reale, per cui ecco che il protagonista decide di fare quello che magari avrebbe soltanto pensato una persona normale. Sì. Le droghe e quant'altro hanno aiutato e io ho dato immagine a questa cosa qua. Sì. Sergio, per maggiori informazioni anche rispetto alle sale disponibili, ci lasci dei riferimenti web? C'è una pagina Facebook, un sito internet? Sì, c'è il sito Rabbia Furiosa, quindi mi sembra che sia proprio rabbiafuriosa.it, ma comunque basta che scrivete Rabbia Furiosa e esce poi immediatamente subito da Google. Dopodiché c'è appunto il Facebook, la pagina Facebook, ne ho fatto anche scherzosamente una pagina che si chiama Il Canaro, insomma c'è un po', non è difficile trovarlo, vedere il teaser, il trailer che credo che di per sé possa essere abbastanza convincente su YouTube per far capire che atmosfere ci sono nel nostro film. Posso dirvi a Roma sicuramente al Cinema L'Aquila verranno per un bel po' perché il film sta andando molto bene, poi c'è credo allo Stardust, allo Starplex, al Cineplex, mi sembra che si chiami, di Ostia. È un film che va un po' cercato, nel senso, oppure al Cinema Pratica, c'è una piccola sala al Cinema Pratica che non conosce quasi nessuno, perché è una sala che ha aperto da poco, vi invito anzi a sostenere anche questo tipo di iniziative, piccole sale che sono appunto pronte a proiettare film non facili dal punto di vista della distribuzione. Se lo cercate comunque lo trovate su Roma, ma anche in tutte le altre città, non purtroppo proprio tutte, ma alcune sale che so che si stanno aggiungendo, perché per fortuna il cinema ha funzionato bene, il film, scusate, ha funzionato bene, quindi spero riusciate a vederlo. Benissimo. Sergio, un saluto, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie mille, ciao. Ah, in bocca al cane.